giusto tu sei, Signore. Come potrò discutere con te? Tuttavia ti porrò delle questioni. Perché la condotta degli empi prospera? È tranquillo chiunque agisce perfidamente. Li hai piantati ed hanno messo radici, crescono e producono frutto. Tu sei vicino alla loro bocca, ma lontano dai loro reni. Tu però, Signore, mi conosci, mi osservi ed esamini il mio cuore nei tuoi riguardi. Trascinali come pecora al macello e riservali per il giorno del massacro. Fin quando farà lutto il paese e l'erba del campo sarà secca? Per la malvagità dei suoi abitanti periscono il bestiame e i volatili. Sì, han detto, Dio non vede la nostra fine. Se tu corri con i pedoni e ti stancano, come potresti seguire i cavalli? E se tu in paese pacifico non stai sicuro, come ti comporterai nella boscaglia del Giordano? Infatti, perfino i tuoi fratelli e la casa di tuo padre agiscono perfidamente contro di te. Perfino loro gridano dietro di te a piena voce. Non fidarti di loro se ti parlano gentilmente. Ho abbandonato la mia casa. Ho ripudiato la mia eredità. Ho posto la delizia dell'anima mia nelle mani dei suoi nemici. La mia eredità per me è divenuta qual leone nel bosco. Ha emesso contro di me il suo grido. Per questo io la odio. Qual uccello screziato è la mia eredità per me. Gli uccelli gli girano attorno. Orsù, radunatevi tutti, animali del campo, venite a divorarla. Molti pastori han distrutto la mia vigna, han calpestato la mia porzione, han ridotto la mia porzione prediletta come un orrido deserto. È stata ridotta una devastazione. Fa lutto dinanzi a me, o devastata. È devastato tutto il paese perché nessuno ivi è responsabile. Su tutte le alture del deserto sono giunti i devastatori. Sì, la spada del Signore divora da un estremo all'altro del paese. Non vi è pace per alcun uomo. Han seminato frumento, ma hanno raccolto spine. Si sono affaticati, ma senza profitto. Si vergognano dei loro raccolti a causa dell'ardente ira del Signore. Così dice il Signore a tutti i vicini malvagi che toccano l'eredità che ho dato in possesso al mio popolo Israele. Eccomi, li sradicherò dalla terra loro mentre strapperò la casa di Giuda di mezzo a loro. E dopo che li avrò sradicati, ritornerò ad aver compassione di loro. E li farò ritornare ciascuno alla sua eredità e ciascuno alla sua terra. Se veramente impareranno le vie del mio popolo, fino a giurare nel mio nome per il Signore vivente, come hanno insegnato al mio popolo a giurare per Baal, allora essi saranno stabiliti in mezzo al mio popolo. Ma se essi non ascolteranno, io sradicherò quella nazione, la sradicherò e la sterminerò. Oracolo del Signore.